Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, in queste settimane il calcio ricomincia ad animarsi, si avvia la Team Cup, è in corso l'International Champions Cup e quindi se volete riscaldare i vostri ardori calcistici vi consiglio la lettura del libro di un giornalista del Sole 24 Ore, il quotidiano del gruppo editoriale al quale appartiene questa radio, e cioè Marco Bellinazzo, che ha scritto I veri padroni del calcio, così il potere e la finanza hanno conquistato il calcio mondiale, pubblicato da Feltrinelli. 252 pagine, 17 euro. Questo libro non vi parlerà tanto di performance sportive quanto di come queste siano sempre più oggetto di sempre maggiori appetiti da parte del potere politico e finanziario. Il calcio, dice infatti Bellinazzo, sulla scia della globalizzazione è diventato un elemento essenziale della politica. Il calcio aggiunge per molti aspetti un'ideologia, o perlomeno una moderna versione dell'ideologia che racchiude in sé un sempre più definito armamentario culturale, economico e sociale. Non che in passato non siano mancate le commistioni tra politica e pallone, e del resto in Italia noi ne sappiamo qualche cosa, ma leggere questi episodi isolatamente, dice l'autore, è riduttivo e rischia di farci perdere la visione complessiva del fenomeno, che è riconducibile a una realtà, quella che per Bellinazzo appunto il calcio ormai è diventato un'ideologia. E allora cerchiamo di farci spiegare questa trasformazione, questo cambiamento così complesso dall'autore. Buonasera a Marco Bellinazzo. Eccoci, buonasera. Buonasera. Marco Bellinazzo, nel suo libro, come ho ricordato, lei parla del nesso tra pallone e politica, del rapporto tra potere e calcio. Perché questo rapporto si è fatto sempre più potente, sempre più forte? Beh, perché se prima c'era un utilizzo a fini di propaganda del calcio, da quando il calcio è diventato una vera e propria industria, alcuni governi, alcune cancellerie, alcune autocrazie hanno compreso appieno che può essere qualcosa di più, può essere un vero e proprio strumento di soft power, e hanno deciso quindi di assumere direttamente la governance del calcio mondiale, esautorando di fatto quella FIFA che avrebbe in realtà una sorta di indipendenza per statuto dal mondo politico. Eppure non è, perché le vicende degli ultimi 2-3 anni invece hanno fatto esplodere questo fenomeno, che prima, diciamo, era più legato ad alcuni casi singoli, alcuni episodi come la dittatura argentina del 78 piuttosto che l'inno nazionale azzurra fascista, insomma, degli anni 30. E infatti lei la FIFA la definisce l'ONU ombra tra soldi e politica. Sì, di fatto la FIFA ha assunto questo ruolo di soggetto che può legittimare molto più efficacemente, molto più rapidamente della stessa ONU l'esistenza di uno Stato. È accaduto per tanti paesi, l'ultimo per esempio riguarda il Kosovo, con tutte le conseguenze che ci sono state per l'opposizione della Serbia e della Russia a questo riconoscimento, e tutte le problematiche che sono ancora in corso, laddove proprio ricordiamo che nella deflagrazione della ex Jugoslavia un ruolo non secondario hanno avuto proprio il calcio, le curve che hanno fomentato il nascere di certi nazionalismi esasperati. E di fatto un altro tema importante, per esempio, si pone per la stessa Palestina, ma per la nuova Siria, per cui ci sono varie nazionali che vogliono essere riconosciuti come vere Sirie e non quella che c'è attualmente, che viene invece ascritta al governo di Assad. Quindi il ruolo politico di ONU della FIFA ha in effetti sempre più preso piede. E nel nuovo corso della FIFA, che è iniziata pochi mesi fa, si può immaginare che succeda qualche cosa, che questo sistema cambi, ci sia più trasparenza? Devo dire che probabilmente ce ne sarà sempre meno. Gli Stati Uniti con l'FBI hanno di fatto esautorato quello che era il vecchio sistema un po' più autoreferenziale, indipendente, con Blatter e Platini, hanno instaurato un nuovo regime che apparentemente dichiara di voler essere più appunto autonomo e più trasparente rispetto a certi giochi di potere, ma di fatto poi è soggetto alla dinamica e alle forze di questi stati, e lo si vede dal fatto che non solo le due edizioni dei mondiali già assegnate, cioè quella del 2018 in Russia e il 2022 in Qatar, contestatissime perché si parla di imbrogli, tangenti che coinvolgono appunto anche gli stessi governi, che avrebbero fatto di tutto per ottenere questi mondiali, ma anche le edizioni ancora non assegnate di fatto sono state già prenotate, cioè nel 2026 negli Stati Uniti e nel 2030 la Cina, che appunto rappresentano proprio plasticamente questo nuovo ordine mondiale che si sta costruendo intorno al calcio. Fermiamoci a questi due paesi che lei ha citato, la Russia e il Qatar. Cominciamo dalla Russia. La Russia nel suo libro appare come uno dei protagonisti di questo gioco, di questo rapporto. Si parla nel suo libro anche della storia delle recenti controversie con gli Stati Uniti, controversie nelle quali lo sport ha avuto anche una parte importante. E ovviamente ci sono molti riferimenti al caso che lei ha citato, cioè l'attribuzione dei mondiali di calcio a Mosca l'anno prossimo. Insomma, la Russia gioca un gioco sempre più globale anche nel calcio. Sì, di fatto da qualche settimana fa c'è stata la Confederation Cup, che è un po' l'antipasto dei mondiali, che si svolge appunto un anno prima come una sorta di prova generale. Ebbene, la partita inaugurale ha visto presente Vladimir Putin, che ha colto questa ennesima occasione per indicare proprio nei mondiali nel 2018 un evento globale di cui la Russia sarà organizzatrice e sarà grande protagonista nei suoi auspici, e considerando insomma l'elezione la prossima primavera, dovrà in qualche modo celebrare questa edizione della Coppa del Mondo russa, la nuova Russia neozarista che riprende dopo anni di difficoltà, nonostante la situazione economica, comunque il suo ruolo di primario attore nello scacchiere globale. E poi c'è l'Islam, per l'appunto. Lei qui in questo ambito parla di calcio sotto assedio. In che senso? C'è anche il petrolio, naturalmente, lei ne parla nel suo libro. Sì, c'è questo gioco per cui effettivamente il calcio è stato utilizzato dai paesi del Golfo, dagli sceicchi, dagli emiri, come strumento appunto di soft power, comprando grandi squadre in Europa e appunto accaparrandosi l'organizzazione del Mondiale 2022. E c'è questo rapporto molto complicato dell'Islam con il mondo del calcio. Il calcio è molto amato nell'Islam, eppure forse proprio per questo, anzi, è odiato da tutti i movimenti fondamentalisti. Ricordiamoci che il 31 novembre 2015 il principale luogo di attentati in Francia doveva essere lo Stade de France. Per fortuna in quel caso le misure di sicurezza hanno funzionato, ma ci sono continui attentati, continui attacchi a tutti quei fedeli che sono musulmani, che sono però anche appassionati di calcio e che spesso sono stati trucidati quando assistono a delle partite di calcio, perché questo rappresenta una violazione, secondo appunto i movimenti fondamentalisti, della purezza dell'Islam. Eppure invece ci sono tanti investimenti nel mondo del calcio. La stessa Saudi Aramco, che è la compagnia di Stato araba che dovrebbe quotarsi il prossimo anno, ecco, oltre a occuparsi di petrolio per sua vocazione naturale, direi, si occupa anche della costruzione di stadi, tant'è che il nuovo erede al trono, il principe, l'attuale re, che ha surclassato di fatto la ordinaria catena di successione al trono, ha indicato nel suo progetto, nel suo grande piano, nel Saudi Vision 2030, anche lo sport come uno di quei settori in cui investire per affrancare sempre più l'Arabia Saudita dalle risorse petrolifere. L'ultimo protagonista che compare nel suo libro è la Cina, che ormai è di casa anche in Italia. Che cosa dimostra il dinamismo della Cina? Dimostra che Xi Jinping e la dirigenza del Partito Comunista hanno individuato appunto lo sport, in generale tutta l'industria dell'entertainment, come degli elementi fondamentali per dare vita a quel new normal, cioè a quella riconversione dell'economia che deve essere sempre più basata sui consumi interni e sulla nascita, chiamiamola, di una borghesia, anche se può essere contraddittorio in un paese comunista, ma la Cina vive di contraddizioni, essendo appunto un'economia di Stato. Ebbene, attraverso il calcio, attraverso gli investimenti nel calcio e nello sport, si vuole produrre questo cambiamento. Il calcio viene visto appunto come quello sport di massa capace di trasformare anche culturalmente un paese, e c'è un piano paragonabile alle grandi pianificazioni industriali di epoca comunista, che vede nel calcio l'obiettivo principale di uno sviluppo della gioventù cinese e un piano di sviluppo che dovrà portare la Cina ad ospitare, come raccontavo prima, i mondiali nel 2030 e possibilmente a vincerli. Attualmente la Cina è oltre l'80° posto nel ranking FIFA, ma si è affidato a Marcello Lippi, l'allenatore dell'Italia campione del mondo del 2006, per compiere questo percorso. Vedremo in quanto tempo ci riusciranno, il se non è in dubbio. In questo sistema che spazio c'è per i paesi che non hanno aspirazioni imperiali? Ci può essere un calcio meno legato agli aspetti politici di potere? C'è un calcio che è diventato, diciamo, un calcio molto industriale, ma magari privo di questi connotati politici, che è il calcio europeo. Però questo calcio è sempre più assediato, appunto, è sempre più colonizzato dalle aziende che si muovono per conto dei governi che invece intendono dominare dal punto di vista imperiale il calcio, e che rende il calcio, appunto, del vecchio continente, in particolare il calcio italiano, sempre più succube e in qualche modo inconsapevole di questa colonizzazione. Un esempio, appunto, lo abbiamo a Milano, dove le due squadre sono finite in mani cinesi, anche per la fine, per la debolezza della, chiamiamola, classe imprenditoriale italiana, che invece aveva investito più nel football, e di conseguenza lo spazio, a mio avviso, è sempre minore, a meno che non si prenda coscienza dei fenomeni che stanno avvenendo e si provi, chissà, magari anche in chiave europea, a porre degli argini. Altrimenti la vecchia Europa, che un tempo era il centro, la culla del calcio mondiale, sarà sempre più il parco giochi delle grandi potenze, che troveranno nelle squadre e nel grande blasone delle compagini, appunto, del vecchio continente, delle società, appunto, da colonizzare, da conquistare, piuttosto invece che delle squadre da ammirare da lontano, magari solamente in TV, come avveniva fino a 10 anni fa. Grazie a Marco Bellinazzo, autore dei Veri Padroni del Calcio. Buona serata. Grazie a voi e buona serata. Su questo tema vi segnalo anche il libro di Pippo Russo, che è un sociologo nonché collaboratore anche su temi sportivi di vari giornali, che ha scritto M, l'orgia del potere, controstorie di Jorge Mendes, il padrone del calcio globale, pubblicato da Edizioni Clichy, 530 pagine, 18 euro. Mendes è l'uomo più potente del calcio, secondo l'autore. Egli infatti ha conquistato questo ruolo, tra l'altro, in breve tempo e senza grandi ostacoli, nonostante che provenga da una famiglia di umili origini e da un paese relativamente periferico come il Portogallo. Molti aspetti della sua carriera sono rimasti nell'ombra. Russo non vuole scrivere una storia contro Mendes, ma certo la sua è appunto una controstoria, ossia la messa in discussione, spiega, del canovaccio narrativo dominante su qualcuno o qualcosa. Mendes è un superagente. Che cos'è il superagente? Una figura che abbatte i confini tra molti di questi ruoli, cioè i ruoli agonistici, tecnici, dirigenziali, di intermediazione. In origine Mendes, spiega l'autore, è un agente di calciatori, poi arriva il momento in cui vengono piazzati anche i dirigenti e così Mendes diventa un centro motore di affari calcistici di ogni rango. Insomma, il superagente è un consulente di mercato dei club, un referente degli investitori esterni che acquisiscono diritti economici dei calciatori. E di questo superagente seguiamo qui la carriera, spesso raccontata ufficialmente in maniera molto diversa da come essa si è svolta effettivamente, nel segno, conclude l'autore, di una brama di potere e di ossessione per le immagini che creano situazioni imbarazzanti ai limiti del ridicolo. E qui ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Ma cos'è quest'estate? Semplice, l'appuntamento estivo con l'attualità di Radio 24. Le storie di cronaca più importanti, i numeri di un'Italia in continuo cambiamento e un po' di leggerezza sotto l'ombrellone. Ma cos'è quest'estate? Con Elisabetta Fiorito, Roberta Giordano e Deborah Rosciani. Dal 31 luglio alle 8 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di arte, partendo da un'importante mostra che è in corso a Milano alla Fondazione Prada fino al 24 settembre. TV 70, Francesco Vezzoli guarda la RAI. Questa è una mostra concepita dall'artista in collaborazione appunto con la RAI, che esplora la produzione televisiva degli anni 70. E in questa occasione vi segnalo di Romana De Angelis Bertolotti, Storia della nascente televisione italiana e dei sei uomini dimenticati. È pubblicato da Odoia, 268 pagine, 20 euro. Il periodo preso in esame in questo libro precede quello al centro della mostra di Vezzoli, perché appunto nel libro ci fermiamo al 1961. Si parte quindi dalla radio per arrivare alle origini della televisione e all'impegno tecnico e ingegneristico che allora fu realizzato per costruire i ponti radio. E quindi questa è una storia soprattutto industriale della RAI, di cui conosceremo i protagonisti, purtroppo dimenticati, che hanno contribuito a fare dell'Italia un paese moderno. Dalla TV passiamo al cinema, perché domenica prossima ricorrerà il 10° anniversario della morte di uno dei più grandi registi del Novecento, Ingmar Bergman, e lo ricordiamo con la sceneggiatura di uno dei suoi film più famosi, Il Settimo Sigillo, quello che si apre con la famosa partita a scacchi tra la morte e il cavaliere, certamente uno dei film più celebri del Novecento, che fu realizzato nel 1957. La sceneggiatura di quel film appare adesso per la prima volta in italiano, tradotta dal Criscuolo, per Iperborea, 118 pagine, 15 euro. Goffredo Fofi, nella postfazione a questo libro, ricorda il significato anche politico della scoperta di Ingmar Bergman, avvenuto grazie anche a quel film. Una scoperta che non si limitò al regista ma anche al suo paese, alla Svezia, alla Svezia socialdemocratica, che apparve un modello ai giovanotti italiani che scoprivano appunto altre nazioni e altre scelte politiche. E infatti scrive Fofi che Bergman sedusse soprattutto quei giovani che, nati e cresciuti superficialmente cattolici, diventati superficialmente atei o superficialmente marxisti, si sbalordivano alla disinvoltura insieme della profondità con cui, per esempio, i giovani dei film di Bergman discettavano di teologia, o per il modo in cui nel Settimo Sigillo appunto tante visioni si incrociavano, tanti modi di intendere la vita e il bisogno di spiegarsela, di darle un senso, di investigare sugli enti ultimi, su Dio. Comincia un periodo certamente dedicato alle vacanze, anche di viaggi, di turismo. Visiterete in queste settimane anche borghi d'arte, città d'arte, chiese, musei. Vi imbatterete in edifici ispirati appunto a temi religiosi, che sottolineano quanto sia forte il rapporto tra arte, non solo visiva, ma anche, pensiamo all'architettura e alla musica, con la religione. Un rapporto che oggi si è molto indebolito, e proprio su questo tema indaga un libro curato da Cristina Siccardi, studiosa e collaboratrice di vari giornali, che si intitola L'arte di Dio, sacri pensieri, profane idee, pubblicato da Cantagalli, 456 pagine, 20 euro. E qui troveremo tante testimonianze, dal cardinale Bartolucci, morto centenario, quasi centenario pochi anni fa, che è stato il grande maestro perpetuo della Cappella Musicale Pontificia, la Cappella Sistina, a protagonisti del dibattito attuale come il gesuita padre Spadaro, ad artisti come Pierluigi Pizio, Riccardo Muti, a storici e critici dell'arte come Vittorio Sgarbi o Antonio Paolucci, e tutti contribuiscono a cogliere vari aspetti del dibattito in corso, che sostanzialmente verte su una domanda: perché molto spesso oggi l'arte sacra, in particolare le chiese, siano così brutte, come riconosce, è proprio il caso di dire, papale Antonio Paolucci, che scrive: io mi sono limitato a dire che le chiese moderne di nuova costruzione sono, generalmente parlando, brutte, più brutte persino delle case che la gente abita, più brutte dei quartieri nei quali le donne e gli uomini di oggi sono obbligati a vivere. Non è questione di architetti più o meno bravi né di committenti, il fatto è che si è andata dissolvendo l'idea di chiesa. Quindi un tema sostanziale, e questo tema è affrontato da uno dei protagonisti dell'evoluzione attuale dell'arte sacra in Italia, cioè il gesuita Andrea Dell'Asta, che dirige la Galleria San Fedele a Milano e la Raccolta Lercaro a Bologna, e che ha scritto il libro Eclissi, oltre il divorzio tra arte e chiesa, pubblicato da San Paolo, 142 pagine, 16 euro. Qui in particolare padre Dell'Asta parla proprio dell'arte liturgica, ossia quell'arte sacra, spiega, che nasce per spazi ecclesiali, per luoghi di culto, per la celebrazione, per il rito e per la preghiera. Il libro parte dalla condizione della Chiesa nel Novecento, che ha fatto venir meno il concetto di rappresentazione che dominava l'arte, in particolare l'arte sacra. Questo crollo, spiega l'autore, ha lasciato la Chiesa smarrita, confusa, queste sono le sue parole, e questo smarrimento si è percepito come azzeramento teologico e filosofico e dunque ha avuto una conseguenza netta sull'arte che nel frattempo è divorziato dalla Chiesa. E quindi nel libro qua si parla di liturgie, di immagini liturgiche, si coglie una tendenza di ritorno al passato, al figurativo, declinato soprattutto nella nostalgia per l'arte bizantina o per l'arte neo romanica, e si passano in rassegna altre forme d'arte, il neorinascimentale, il neobarocco e i rischi di cadere semplicemente nel kitsch. E infine questo libro esamina alcune esperienze, tra cui della stessa chiesa di San Fedele a Milano, diventata sede coraggiosa e significativa di interventi anche di arte contemporanea, per concludere con la raccomandazione di Francesco di non abbandonare comunque la via pulcritudinis, la via della bellezza. Un artista che si era espresso su questi temi, anche su questi temi, era il grande scultore Arturo Martini, che già nel 1934 aveva dichiarato: sarebbe meraviglioso il ritorno della Chiesa agli artisti, se la Chiesa avesse fiducia in noi molte cose andrebbero meglio, solo la fede fa compiere i miracoli anche quelli dell'arte. Troviamo questa testimonianza, queste parole, nel libro che ad Arturo Martini dedica Elena Pontigia, si intitola Arturo Martini, la vita in figure, pubblicato da Joan Levi, 302 pagine, 25 euro. Martini visse tra il 1889 e il 1947, fu certamente uno dei massimi scultori italiani e non soltanto del Novecento, ebbe una gioventù difficile, un periodo di autentica povertà, poi riuscì a studiare, prima a Venezia, poi in Germania, a Parigi, aderì al futurismo e finalmente gli arrise il successo. Scolpiva in creta, in pietra, in bronzo, diventa famoso finché dopo la Seconda Guerra Mondiale, in un periodo particolarmente difficile per lui, anche per l'epurazione che subì nel post-fascismo a causa della sua adesione al fascismo, pubblica un libro dal titolo che sembrò clamoroso, La scultura, lingua morta. Un libro nel quale Arturo Martini dichiara addirittura: niente giustifica la sopravvivenza della scultura nel mondo moderno. È una sconfessione senza precedenti questa di Martini, che rende ancora più intenso e drammatico il suo percorso artistico. Come spiega l'autrice, infatti, il suo attacco finisce per aggredire i protocolli di tutta l'arte plastica. Con una sensibilità inquieta che anticipa per certi aspetti l'informale e persino l'arte concettuale, Martini vagheggia una scultura capace di far lievitare liberamente la materia, di essere spazio più che oggetto, e nei suoi pensieri lascia riaffiorare la sua antica avversione per l'inerzia del marmo cimiteriale. Un altro grande innovatore dell'arte fu il pittore Georges Seurat, che rappresentò una svolta nella pittura lui contemporanea, che pure vedeva all'opera artisti del calibro di Gauguin, Van Gogh e Toulouse-Lautrec. Seurat, che fu inventore del pointillisme, fu al centro della Parigi di fine Ottocento, dove morì 32enne nel 1891, e gli dedica un ritratto che è anche un ritratto di quella Parigi Francesco Poli, storico e critico d'arte, che ha scritto Il pittore solitario, Seurat e la Parigi moderna, pubblicato da Electa, 164 pagine, 18,90 euro. L'artista, come ci dice l'autore, era agli antipodi dalla tradizione bohemienne di molti suoi contemporanei. Era distinto, curato, ebbe una vita tranquilla, ma la sua vita fu comunque un affascinante enigma, così la definisce l'autore. Un enigma sul quale indaga questo libro, scritto anche per descrivere i luoghi di Seurat in un dialogo con l'autore, che così descrive all'oggetto del suo studio, cioè il pittore stesso, come Poli interpreti l'arte di Seurat. Il suo metodo non è solo una questione di tecnica. Ci sono molti che hanno adottato la sua tecnica, ma i risultati sono ben diversi. Me lo lasci dire, la sua pittura è un'altra cosa. Il suo metodo è una singolare visione del mondo. C'è un incanto sospeso, quasi metafisico, nella sua ricerca della luce e della geometria segreta delle cose. C'è una sensibilità e un'intelligenza così profonda del misterioso senso della realtà, quella della natura e quella della vita sociale. Veniamo all'arte contemporanea con una insolita, divertente e intelligente incursione, quella di Flavio Caroli, noto critico e storico dell'arte, che ha pubblicato Storie di artisti e di bastardi con Uter, 196 pagine, 25 euro. qui non si parla esclusivamente di arte contemporanea, ma soprattutto di quello, e Caroli lo fa rivolgendosi a una nipote che vuole lavorare nel mondo dell'arte, e a questa nipote l'autore vuole presentare la realtà dell'arte moderna, così scrive, nella vita del nostro tempo, la vita vera intendo, bellezza e guano equamente miscelati come accade nella vita vera, e lo fa raccontando incontri ed esperienze con molte immagini, una grafica pop con incursioni anche nell'arte classica, con rievocazioni degli anni 60 e 70, ma soprattutto appunto si parla di arte e di artisti di oggi, dei loro incontri con Caroli. Mario Schifano, per esempio, viene definito il ghepardo principe tra i cagnacci di Piazza del Popolo, e c'è anche un Lucio Dalla abbastanza inedito, quello della Sera dei Miracoli, e poi troviamo una descrizione molto attuale del clima febbrile, violento, vendicativo che domina un evento in corso in queste settimane, cioè la Biennale di Venezia, in occasione della quale, a sentire Caroli, si scatenano gli istinti peggiori. Come è noto, lo sport preferito da chi si occupa d'arte in Italia, non escluso chi scrive, era ed è la caccia in botte alla Biennale. Si tratta di questo. Conosciuti il nome del direttore e i suoi programmi, il che normalmente avviene pochi mesi prima dell'inaugurazione, si predispone un cubicolo galleggiante in laguna, appunto una botte, dove si trascorrono settimane di preparazione e di attesa. È essenziale che le munizioni siano adeguate alla selvaggina che si intende impallinare. Esistono pallottole di piccolo calibro caricate con i nomi degli assenti. Si trovano sempre alcuni assenti di cui pare risolutivo stigmatizzare la mancanza. Esistono proiettili dum-dum contro le pachidermiche mostre a tema. In questo caso si può sparare al corpo invocando l'inesattezza dell'assunto o azzardare l'alea del colpo secco alla fronte, sostenendo che l'idea era buona, ma l'insipienza dei commissari l'ha mutilata per disinformazione, tradizionalismo, asservimento al mercato, oscure collusioni politiche o sessuali e quant'altro. La notte che precede l'inaugurazione trascorre in un eccitato dormiveglia. La decisione ultima e cruciale per gli uomini riguarda l'abbigliamento. Scartato il look stupidamente trendy o modaiolo, resta il lino bianco o la camicia Levi's con cravatta Vivax di 30 e più anni prima. L'alba si avvicina con sanguinolente striature di rosso e di malva, presaghe del sangue che lorderà ogni vicolo e tutti i campielli. Poi il massacro comincia. Non una sola tipografia o sito internet d'Italia si priverà degli insulti vomitati da mille e più bocche da fuoco. E a questo punto il confettino. Oggi ricorre il 60° anniversario della morte di uno dei grandi autori del Novecento italiano, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e vi segnalo in questa occasione il libro di Maria Antonietta Ferraloro, docente e saggista che insegna letteratura a giovani lettori, che ha scritto Il Gattopardo raccontato a mia figlia, con le illustrazioni di Giulia Rossi. È pubblicato dalla Nuova Frontiera, 96 pagine, 13,50 €. E in questo libro l'autrice racconta appunto alla figlia la figura dello scrittore, ma soprattutto le origini e l'importanza di questo capolavoro della nostra letteratura. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Filippo Oreggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.